Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti ai Colori dell'Anima. Siamo in studio con io, Monica, animazione, poi Cristina in regia. Ciao a tutti, buonasera. E il nostro ospite della serata, Giuseppe Nastri, bentornato, visto che Grazie. sei già stato qua altre volte. Buonasera. Buonasera. Buonasera, Giuseppe. Buonasera. E allora saremo con voi, in compagnia con voi, come sempre, fino alle 22. E se volete chiamarci e farci sapere un po' quale sarà il vostro Natale quest'anno, perché il tema di oggi sarà proprio sul Natale, diciamo delle note natalizie, ecco, il numero è lo 02 345 26 56. Invece, se volete seguirci online, potete andare su www.radioalma.eu. Esatto, ed eccoci qui. Allora, dicevo, anticipavo prima il tema della serata, che sono appunto delle note natalizie, che vi faremo un po' vivere all'ascolto di alcuni brani letterari e anche alla scoperta della nascita del Natale e di San Nicola, eccetera. Quindi il colore Il quale può colore di questa essere? serata, quale sarà? Io ho scelto un rosso bordeaux, un rosso un po' caldo, un rosso veramente caloroso, ecco, così come un po' l'idea che vogliamo dare questa sera, no? Questo clima natalizio, con questa settimana che inizia appunto oggi per poi terminare domenica con Il Natale. Natale. Questo clima di famiglia, di accoglienza, in cui si sta tutti insieme. Quindi Esatto. facciamo questo colore rosso. Esatto. E Giuseppe Nastri, il nostro ospite, ci aiuterà a entrare nella puntata, giusto Giuseppe? Vero. Giusto. E allora iniziamo magari lanciando una canzone. Sì, e lanciamo Irene Grandi. No, lanciamo Giorgia. Lanciamo Giorgia. E sarà il giorno migliore questo Natale 2011 che è alle porte. E allora vediamo un po', iniziamo ad indagare che cosa sono, quali sono state le origini del Natale. Giuseppe, sai dirci qualcosa? Ma io ho guardato un po' nel passato, nella Sì. storia. Effettivamente il 20, come voi sapete tutti, è il periodo dell'anno in cui, proprio dal punto di vista astronomico, le giornate si accorciano fino al 21 dicembre e poi cominciano ad allungarsi. Questa data del 21 dicembre la conosciamo adesso, precisa, eccetera, ma ha variato durante i secoli perché il calendario Ha ha cambiato. cambiato. C'era prima il calendario, beh, prima c'erano dei calendari arcaici, poi c'è stato il calendario giuliano, detto così da Giulio Sì. Cesare, ma pur così, pur con le correzioni fatte a quel tempo, il giorno in cui le giornate erano le più corte tendeva ad avanzare dal 21 dicembre, è arrivato fino a 13 giorni prima, 10 giorni Ecco, il prima. giorno della merla, io mi ricordo che c'era questo giorno della merla in italiano, non so se era gennaio o dicembre, era il No, giorno più freddo. era la fine di gennaio. Ah, Così si ecco, allora diceva nelle nostre campagne. esatto, le nostre campagne lombarde. Esattamente. Quindi è 21 dicembre, Il però 21 giorno più dicembre è il corto. giorno più corto. A partire dal 21 dicembre, oggi, le giornate si allungano. Ma per esempio Dante diceva già prima che gennaio tutto si sverni, lui pensava addirittura che a un certo punto a forza di avanzare dal 21 fino al 13, per esempio una volta si diceva Santa Lucia il giorno più corto che ci sia, Ah sì, e Santa Lucia è probabilmente il 7, il 13, il il 13, 13. probabilmente lo è stato a un certo momento, si è avvicinato moltissimo. E per questo c'è stata la riforma gregoriana del calendario alla fine del 500, alla fine del XVI secolo. Il Papa Gregorio ha tolto 10 giorni dal calendario, è saltato di 10 giorni, perché era 10 giorni di anticipo, di ritardo, secondo come si vede la cosa. Insomma, il giorno più corto capitava l'11. È naturale che l'uomo, l'essere umano, vedendo questo fenomeno gigantesco, perché riguarda tutti, e poi riguarda anche, per esempio, quando si era molto più legati alla cultura dei campi, riguardava proprio la sopravvivenza. Certo, il fatto, anche il ha pensato l'uomo, l'essere umano, di celebrare l'allungarsi delle giornate con una festa, e questa festa era dedicata al sole. Se ne parla, al dio sole, sole considerato come una divinità, sì. E se ne parla già nel primo millennio, e se non prima, nel primo millennio avanti Cristo. Mm-hmm. Quindi la divinità, quindi è una divinità pagana. Il sole divinizzato, d'altra parte tutti i pianeti erano divinizzati. Certo, era una delle ragioni per cui Sant'Agostino era così contrario all'astrologia, perché a quei tempi l'astrologia si basava sui pianeti divinizzati, ecco. Sole, luna. Uh-huh. Apollo era il dio del sole, dio appunto, del sole, sì, appunto. Sì. Diana invece legata alla luna e via discorrendo. Sì. E quindi questa festa quando è stata celebrata? L'hanno posizionata in che data? Allora, naturalmente questa festa esisteva presso diversi popoli, soprattutto nell'Oriente, nel Medio Oriente. Nel Medio Oriente si celebrava in una località che si chiama Emesa, e c'erano dei sacerdoti dedicati al Dio Sole in questa città, che si trova tra i confini della Siria, della Giordania, quindi proprio sì, all'interno del Medio Oriente, la zona medio orientale. Mm-hmm. E ci fu una guerra in cui l'imperatore Aureliano sconfisse la regina Zebedia di Palmira. Il regno di Palmira. Ecco, Palmira, che esiste ancora, si visita, sono zone archeologiche interessantissime, all'interno però della Siria, in profondità. E questi sacerdoti furono ricompensati, per così dire, da Aureliano per il loro aiuto o per la loro preghiera, diciamo, per l'invocazione del Dio, con l'introduzione a Roma, proprio nella capitale dell'impero, al centro dell'impero, del culto del sole. Il sole invitto, Sol Invictus. E la festa fu fissata il 25 dicembre, ecco, 25, quindi, secondo il calendario giuliano dell'epoca. Quindi 25 dicembre, festa appunto del sole, 25 dicembre, natività del Signore. E poi anche possiamo riferire anche il fatto della le molte chiese sono rivolte ad Oriente, quindi probabilmente la nascita del sole è legato al fatto appunto a questo Dio che nasce dove appunto a Oriente, no? dove nasce il sole, quindi insomma una vita, insomma un prospetto anche di cosità, una vita che comincia, eccetera. Quindi evidentemente per i cristiani questo poteva essere una fonte di equivoco, perché tutto il cristianesimo all'inizio perseguitato, rigoroso, attento a scartare le eresie dal suo seno, temeva una contaminazione. Sant'Agostino, molto più tardi, dirà: non celebrate il sole il giorno del 25 dicembre, quindi celebrate la nascita di colui che ha fatto il sole. Ah, ecco. Quindi c'era un rischio di sincretismo. Mm-hmm. E effettivamente all'inizio la nascita di Gesù non ci celebrava. La vera festa cristiana era la Pasqua, e la certo, domenica, che nel calendario pagano si chiamava il giorno del sole, infatti ancora in inglese si dice Sunday. Sì. Saturday, Sunday, sì. Eh? Questo sì, noi sì, in italiano l'abbiamo un po' perduto, perché noi diciamo domenica giorno Domus, del Signore, domo del Signore. Dominus sì, la giornata Dominus del Signore, sì sì, infatti Domus è la casa, Signore, sì. Dominus. Però questo misto tra il paganesimo e il cristianesimo è sempre rimasto e si è tramandato un po' nel tempo. Infatti ancora oggi noi consideriamo a livello popolare Natale quasi più importante di Pasqua. Sì. Mentre invece la vera festa cristiana all'inizio è, sin dall'inizio è la Pasqua. Certo. E la domenica ogni settimana celebra la risurrezione del Signore, sì, che avvenne la domenica di Pasqua. Sì, sì. Il Natale possiamo dire che era più come un'usanza popolare, nel senso non che c'era neanche. Non c'era. La festa di Natale fu introdotta molto tardi, nel 330, dall'imperatore Costantino. C'è un libro di uno storico francese, Paul Venn, che valorizza proprio l'influenza, valorizza perché va valorizzata, l'importanza di Costantino nello stabilire certi ritmi del cristianesimo, per esempio tutte le basiliche romane, certo, costruite da Costantino, anche se c'erano evidentemente dei luoghi di culto già, perché le persecuzioni non erano continue, sì, quindi ogni tanto si costruivano delle chiese, non soltanto le catacombe. Sì. Costantino disse il 25, dice, fece un editto nel quale si diceva si celebra il 25 dicembre la nascita di Cristo. Voleva, per così dire, nascondere la festa del sole invitto con una festa cristiana, anche se i cristiani in quel momento lì erano solo il 10% della popolazione. Era proprio la convinzione personale di Costantino. Certo, perché Costantino si era convertito al cristianesimo. Si era convertito al cristianesimo. E infatti il Papa che approvò questa festa fu il Papa Giulio I nel 337, sette anni di ritardo. La Chiesa arriva sempre un po' in ritardo. ci pensa su, ci deve pensare con calma. Quindi non c'era, infatti ancora oggi, per esempio, ho guardato un po' su internet, sì, perché là si impara moltissimo, cioè, un'enciclopedia, non è solo una perdita di tempo, è anche una grande fonte di istruzione, di verifica di certi dati, modi di scrivere le cose, eccetera. Sì. C'era un testo di un autore valdese che diceva: ah, non si deve assolutamente celebrare il Natale perché i primi cristiani non lo celebravano. E perché probabilmente c'è questa contaminazione basta saper distinguere, si può anche celebrare il Natale. Però bisogna stare attenti. Sant'Agostino aveva una gran paura, ancora morto dopo il 400, insomma, pare il 410, ma non ricordo con esattezza, o forse anche più tardi. A Sant'Agostino aveva una gran paura che 100 anni dopo l'istituzione della festa del Natale cristiano si pensasse ancora al Sole Invictus e alle tradizioni pagane. Tanto più che il 25 dicembre veniva alla fine dei Saturnalia, che erano delle feste molto più antiche dei romani. Ah sì? Ancora prima che Aureliano istituisse la festa del Sole Invictus, era proprio una festa tradizionale, i Saturnali, mm-hmm, che concludevano un po' l'anno, se volete. Mm-hmm. Quindi c'era il rischio di una contaminazione pagana gravissimo, e questa distinzione costò quello che costò, riuscì fino a un certo punto, non lo so. Comunque oggi siamo ritornati quasi ad una festa pagana col Natale, consumistico. Sì. Ma questa contaminazione tra i pagani e il cristianesimo ci sono altri esempi? Sì, è pieno. Per esempio, dalle mie parti in Puglia c'è il culto di San Michele, che è molto... è un santo molto venerato, ci sono diversi santuari e c'è per esempio, dalle mie parti, c'è una grotta che è dedicata a San Michele, però storicamente questa grotta era un tempio pagano. Su Monte Gargano c'è un grande santuario, però ce ne sono anche altri, ce n'è anche un altro, quello di cui parlo io è in un piccolo paese. E questa grotta prima era attribuita era un tempio della dea Minerva, e poi il cristianesimo si è sostituito alla storia precedente dell'umanità, quindi questa contaminazione siamo sempre un po' a rischio. Ma alla fine, cioè, il cristianesimo si è installato sulle radici, sì, di quello che era l'impero romano, che era fondamentalmente pagano, quindi sì, sì, ha ripreso un po' molte delle feste, molte per appunto dargli un valore aggiunto. Sì, le ha trasformate, quindi, esatto, le ha cambiate e le ha dato un altro senso. Esatto, le ha dato un valore aggiunto, sì, così. Sì. E allora, dopo questa lunga chiacchierata sulle origini, siamo andati proprio all'origine. Cercare. Esatto. Bene, bene. Direi di fare un po' di riposo lanciando un Tiziano Ferro. Va bene, lanciamo Tiziano Ferro. Torniamo quindi all'attualità. Torniamo all'attualità, la differenza tra me e te. Sì, vai. E rieccoci qua, siamo su Radio Alma, I colori dell'anima. E siamo ancora qui stasera fino alle 22. Stasera in studio c'è Monica, come sempre, e Giuseppe Nastri, nostro ospite d'eccezione, che è venuto a trovarci per parlare insieme a noi un po' del Natale, riscoprire le origini, ma parlare anche dell'attualità, delle tradizioni, della cultura natalizia. Allora, eccoci Monica. Che tra l'altro non ho presentato. Allora, Giuseppe Nastri, lui è già venuto più volte in studio, è appassionato di letteratura, come avete potuto sentire, letteratura, filosofia, storia, mangia i libri, li mangia completamente. Intellettuale, nel vero senso. Intellettuale dà un po' l'idea di qualcuno un po' fuori dalla realtà, un po' spelacchiato. No, solo un modo di vedere le cose. E ha lavorato per anni nell'ambiente come ingegnere nucleare, no? Più o meno, ecco. quindi non è proprio un intellettuale, soltanto diciamo c'è un connubio tra scienza e fede e letteratura, e quindi veramente c'è tutto, ecco. Quindi, ritornando un po' a noi al Natale. Prima parlavamo di queste appunto derivazioni pagane di queste feste magari cristiane installate su eventi pagani. Ce ne sono però anche altri esempi. E Giuseppe, tu ci volevi mostrare l'esempio del culto del sole a Civate. Ci sai dire qualcosa? Sì, è la continuazione di quello che diceva Cristina. Sì. C'è il recupero di luoghi di culto, oltre che di giorni di culto o di date, come abbiamo visto finora, c'è anche il recupero di luoghi, non solo in Europa, ma per esempio in America Latina. Moltissimi di questi templi o chiese cristiane erano su siti del culto degli Aztechi o dei Maya, o addirittura degli Inca. Incas, sì, in Perù. Civate è un esempio. Che è in provincia di Milano. Allora, no. Di? Si trova vicino a Lecco. A Lecco, ecco. Sopra il lago di Annone, quel lago doppio che una parte del lago può essere chiamato lago di Oggiono. Ah sì, Oggiono. Perché tra Como e Lecco ci sono 4 o 5 laghi, secondo come si contano, molto piccoli, che fanno come una piccola collanina di laghi. Il più orientale è quello di Annone, e sopra di esso sarebbe quello di Oggiono, ma il lago di Annone e Oggiono sono collegati da una piccola distanza, insomma. Mm-hmm. Sopra si trova Civate è una chiesa paleocristiana, cioè anteriore all'anno 1000, no, forse non paleocristiana precisa, la parola è anteriore all'anno 1000. E lì si trovano 3 coppie di stele. Stele sarebbero colonne, una parola greca che si usa per questo tipo di pietra. 2 sono orientate all'oriente, 2 inquadrano il mezzodì e 2 inquadrano l'occidente. Per cui si è creduto che fosse un tempio, un luogo sacro per il culto del sole dei Liguri, perché dai reperti trovati sul posto, sul sito, si direbbe che della civiltà dei Liguri, che si estendevano evidentemente dall'attuale Liguria fino alle Prealpi Lombarde. Non credo che ci sia molto di più da dire sul rapporto tra il sole, sono un po' delle ipotesi fatte dagli archeologi. Un po' Stone Age italiano. Ma ecco, poi se si vuole andare a vedere, ci sono per esempio nelle Orcadi, che sono le isole che si trovano al nord della Gran Bretagna, mm-hmm. ci sono delle sepolture o luoghi coperti, insomma, dove il sole deve entrare il giorno del solstizio d'estate, per esempio. Tutto ben orientato in modo che entri il sole, che illumini l'altare o la tomba, secondo i casi. Questo sono tantissimi gli esempi di questo genere. Sì, sì, sì. Infatti prima, appunto, quando eravamo fuori onda, ricordavo anche questo, insomma, comunque il collegamento che c'è tra le feste e i riti, insomma, e il ciclo della come dire, dell'agricoltura, alla fine, che è quello, certo, che è quello per cui vivevano gli antichi. E quindi, appunto, il 21 marzo equinozio di primavera, 25 marzo è la festa dell'Annunciazione, e molte chiese, per esempio, viene in mente la Cappella degli Scrovegni a Padova, c'è questa finestra, questo buco che, nel quale il sole entra per illuminare determinati punti degli affreschi, ecco, dell'affresco, ed era proprio pensato questa cosa, appunto si può assistere il 25 di marzo, eccetera. Che poi, tra l'altro, il 25 di marzo è 9 mesi prima di Natale, quindi è logico che l'Annunciazione corrispondenza accada, logica. Per quanto poi riguarda la verità della data della nascita di Cristo, lì, questo è il giorno, il 25 dicembre, la nascita, il giorno della festa. Esatto. Quanto alla nascita, ci sono delle tradizioni che faceva freddo, eccetera, delle mistiche che hanno detto che i piedi della Madonna sull'asinello erano freddi, San Giuseppe ha dovuto riscaldarli, ci sono delle tradizioni, sì, in questo senso. Però San Luca dice che c'erano i pastori nei campi. Allora, degli eruditi, ma eruditi intellettuali per me sono parole che destano un certo sospetto perché possono andare a cercare molto lontano. Sì. Pretendono che i pastori in inverno non stessero in giro con le loro pecore. D'altra parte, queste gregge dovevano essere da qualche parte e dovevano anche mangiare qualche cosa. Sì. Poi, a quel tempo lì, i pastori, chi erano i pastori? Mica come i nostri pastori moderni, magari erano delle tribù nomadi, come sarebbero gli attuali beduini, che dovevano avere del bestiame. Mm. Essendo nomadi, potevano stare in giro quando tutto l'anno. Eh sì. E quindi non c'è una esclusione che fosse in inverno, calcolando poi che non abitavano sulle Alpi, quindi e magari poi climi più favorevoli. Per quanto Gerusalemme e Betlemme sono abbastanza elevate in altitudine, sì, credo che Gerusalemme sia circa sui 700 metri sul livello del mare, quindi può far freschetto, può la freschetto notte, sì, e magari anche non soltanto in inverno. Quindi questo non la siamo, data, la non data, certi, come, non la siamo data, certi, come l'anno, l'anno della nascita di Cristo, anche questo è stato soggetto a discussioni. A questo, sì. Se sembra che Gesù Cristo sia nato qualche anno prima dello zero del nostro attuale calendario. Filologi, ecco cosa volevo dire. Sì, magari sì, prima, dopo. Sì, sì, sono come si dice, sì, schizzinosi nel cercare le date esatte, ma bisogna, insomma, sapere precise, che esatto, ci sono delle cose che non sono precise, esatto, che non si sanno, che non si possono per certezza. Con certezza. E invece, Cristina, dimmi, si sa per certezza l'esistenza di San Nicola, di San Nicolà. Sì, San Nicolà. Si sa per certezza l'esistenza di San Nicolà. Cos'è successo? Sì, l'esistenza di San Nicolà è vera, è accertata storicamente. E infatti San Nicolà era un vescovo, il vescovo di Mira in Turchia, in attuale Turchia, ed è stato molto famoso alla sua epoca perché era un vescovo molto magnanimo, che ha fatto molto per i poveri, per la gente del suo tempo. Anche qui la storia e la tradizione si mescolano, molte leggende sono nate intorno alla sua figura, e in effetti si narra che San Nicola, quando prima di diventare sacerdote, o anche durante il suo sacerdozio, una notte è passato vicino a una casa dove c'erano 3 ragazze, una casa molto povera, e dove c'erano queste 3 sorelle, e il padre di queste 3 sorelle era disperato perché non poteva maritarle perché appunto era una famiglia molto, molto umile, e aveva deciso di inviarle alla prostituzione. E San Nicola, quando è passato e ha visto questa casa, ha incontrato queste ragazze, è stato preso dalla compassione e ha deciso di notte, ha messo un mantello nero per non farsi riconoscere e ha lasciato dei sacchetti, 3 sacchetti di monete d'oro davanti alla porta di queste ragazze. E quindi il giorno dopo, con queste monete d'oro, le ragazze hanno potuto rimettere a posto la casa, comprarsi dei vestiti e finalmente si sono sposate. Ed è per questa ragione che San Nicola è poi oggi venerato come il protettore di tantissimi generi, tantissimi gruppi, però soprattutto delle donne in età da marito e anche dei bambini, ma anche di altri, aspetta che ora li trovo perché ci sono veramente, allora, farmacisti, profumieri, bottai, scolari e avvocati e vittime degli errori giudiziari. Ecco, proprio. Però la cosa più interessante, allora, perché vi parlo di San Nicola? Perché San Nicola è venerato a Bari. Come infatti, San Nicola, no, di Bari, non solo a famoso. Bari, però in Italia è molto venerato a Bari. E c'è una chiesa ortodossa e infatti il culto di San Nicola è molto più grande presso gli ortodossi che presso i cattolici, ma c'è anche una chiesa cattolica. E questa tradizione è poi anche diventata in tutto il nord Europa è molto più sentita. Viva, molto più sentita che in altre parti del sud Europa, direi. E, in effetti San Nicola è diventato oggi Babbo Natale. Sì, per come è raffigurato alla fine. Sì, barba, sì, le due, sempre cappello. Per parlare del discorso che il cristianesimo si mescola con il paganesimo, la figura di San Nicola è stata poi portata nella società ed è diventato Santa Claus. E sono stati gli olandesi che hanno portato per la prima volta. Ora, se trovo, vi dico anche. Ma io la sapevo data. Che San Nicola derivava dagli spagnoli, possibile? No, c'è il mio coinquilino che lui afferma. Nel senso che era spagnolo lui, San Nicola? Che era il culto di San Nicola deriva dalla Spagna. Ah. E che non so durante se si l'invasione tratta... insomma spagnola qua, il dominio spagnolo, gli spagnoli abbiano portato San Nicola qua. Questo no. Storicamente, secondo le mie fonti. Secondo le mie fonti, secondo le non mie so fonti. Quali siano le sue fonti. Allora, secondo le mie fonti, che sono anche le mie, sono da internet, devo ammetterlo. Allora, San Nicola era. L'enciclopedia. sì, vivente. Allora, come già detto, San Nicola era il vescovo di Mira e morì il 6 dicembre dell'anno 343, probabilmente nel monastero di Sion. E dopo la sua morte, le sue spoglie rimasero nella sua cattedrale fino al 1087. Nel 1087, le due città più importanti e le rivali nel mercato marittimo, che erano Bari e Venezia, sì. Cominciarono a fare anche una rivalità per andare a prendere le spoglie del santo, perché era molto conosciuto. E i baresi sono arrivati prima. Era più vicino. È interessante. Quindi i baresi sono arrivati prima con una spedizione di 62 marinai e hanno preso le spoglie del santo l'8 maggio del 1087. La lotta delle reliquie. Hanno preso le ossa del santo. Però qualche tempo dopo, quando i veneziani sono arrivati, qualche anno, quindi nel 99, circa 10 anni dopo, i veneziani sono arrivati a Mira pure loro e non hanno trovato più le spoglie del santo. Oh, però c'è scritto il cappello, hanno trovato che c'era un altro altare sul quale lui aveva celebrato le messe e quindi hanno preso delle altre ossa, degli altri resti, e quindi anche loro hanno avuto diritto alle reliquie di San Nicola e le hanno riportate a Venezia, e la Serenissima ha avuto diritto alla chiesa di San Nicolò del Lido. Sì. Queste reliquie sono adesso nella chiesa di San Nicolò del Lido, e quindi anche a Venezia c'è il culto di San Nicola. Ok. Un'altra cosa interessante, come tutti sanno, tutti gli abitanti di Bruxelles, qui si festeggia molto questo... Certo, San Nicolà. San Nicolà il 6 dicembre, sì. Che è appunto la stessa festa, però... Anche a Molfetta e Terlizzi L'ho scoperto oggi, che sono due comuni nel Barese, si festeggia la stessa cosa, i bambini mettono gli stivali davanti alla porta la sera del 5 dicembre e il giorno dopo ricevono i tante regali. Caramelle, sì, cioccolate, caramelle. E poi ci sono tantissime altre città in Italia dove si festeggia, viva questa tradizione. Io non lo sapevo assolutamente, perché a casa mia arriva la calza della Befana. Anche a casa mia, sempre è arrivata la calza della che Befana. Io tra l'altro ho scoperto che in realtà è qualcosa che insomma la Befana è famosa invece a Roma, è molto sentita come festa a Roma, sì. Però che non è da confondere quando la si spiega con una sorcière, con una strega. No, assolutamente ecco, no. Quindi... No. Ma neanche con la moglie di Babbo Natale. Ma anche con la moglie di Babbo Natale che se la viaggiano sulla scopa. No. Insomma, ci sono queste due... Niente, quasi tantissime città in Italia hanno questa la stessa tradizione del 6 dicembre, anche in Sicilia ci sono delle città dove si fanno addirittura delle processioni con le barche nell'acqua, quindi è proprio un santo famosissimo. Che poi gli abbiamo dato un altro nome pagano, Babbo Natale. Babbo Natale. Però è interessante perché... Mi piace questa cosa, noi abbiamo iniziato la trasmissione parlando del cristianesimo che ha sostituito le feste pagane, sì. E poi invece nel caso di San Nicola sono le feste pagane che hanno sostituito, si sono sovrapposte alla storia cristiana, perché in effetti Babbo Natale ha proprio le stesse sembianze del santo, la barba, il cappello, sì. Lo stesso... Ma anche Halloween, se vogliamo, nel senso alla fine c'è il giorno dei morti, e poi Halloween comunque è 31 ottobre, vabbè, non è, però è una festa pagana che ricorda, sì, è un'altra festa, è proprio completamente un'altra festa, sì, rispetto al giorno dei morti, sì, però ed è una festa pagana vicina. E le due cose si mescolano sempre, è molto interessante questo, sì, aspetto. E allora, con queste mescolanze così, visto che prima abbiamo sentito la differenza tra me e te... Adesso sentiamo un'altra canzone che ci riporta un po' nel mare, visto che abbiamo parlato del mare, dei marinai che hanno fatto... Non mettiamo De Gregori, non mettiamo De Gregori con Natale. Lo vuoi mettere adesso? Dai, mettiamolo adesso. Lo mettiamo, va bene, lo mettiamo adesso, facciamo come dice Monica. Natale e De Gregori. Allora, quindi sentiamo, eccolo qua. Ed eccoci, benvenuti ancora sui Colori dell'Anima, siamo qui con voi fino alle 22, quindi abbiamo ancora un quarto d'ora, quindi studio appunto Monica, Cristina e Giuseppe Nastri ancora. Ricordiamo che se volete seguirci via internet in streaming, il sito è www.icoloridellanima.eu. Esatto, e il telefono è lo 02345 26 56 se volete raccontarci come passerete quest'anno il Natale. Oppure se volete raccontarci qualche tradizione culturale che abbiamo dimenticato. Esatto. E allora, io passerei la parola ancora al nostro Giuseppe, che ci leggerà un brano di Ada Negri. Il libro è Finestre Alte, la copertina è molto molto molto insomma antica, si vede proprio, e questo brano racconta un po' come dire la messa natalizia, quindi l'andare verso la messa e questa tradizione che veniva vissuta da molte famiglie all'epoca. Giuseppe. Sì, Monica, leggo le parti che tu mi hai detto di leggere, sì. Non di più. No, perché le trovo molto belle. Sì, Ada Negri è piena di emotività, piena di emozione. La maternità è proprio il suo tema. Era nata poveretta, come vedremo da questo racconto. È stata anche socialista, poi durante il periodo fascista ha avuto il premio Mussolini per i suoi scritti. E questo le è costato in termini di accettazione, perché dopo la guerra è stata rimossa questa scrittrice, certo. Perché c'era questa egemonia culturale, diciamo così, delle sinistre e via discorrendo, quindi la povera Ada Negri ne ha sofferto. Grossa artista forse non si può dire, ma... Certo, c'è un'emozione, è un po' il cuore al femminile. Un cuore al femminile. Il cuore romantico, come De Amicis, il cuore maschile. Sì. Ecco. Quando ero bambinetta d'8 o 10 anni, la mattina di Natale Mia madre mi svegliava alle 5 per condurmi alla prima messa nella chiesa di Santa Maria del Carmine. Siamo a Lodi. Festa grande era per me quella levata straordinaria e quell'uscire avanti all'alba in compagnia della mamma e quel senso della solennità natalizia diffuso nell'aria come un profumo di resina e lauro bruciati. Quindi questo sapore, questi odori. Ecco, questa è l'introduzione. Poi salto perché bisogna limitarsi. Per meglio cominciare la festa, prima di arrivare in chiesa, sì, mia madre concedeva, lei così parsimoniosa, era povera gente, il papà era tessitore, concedeva a sé e da me il sibaritico lusso di una tazza di nero bollente al tavolino di un caffettuccio già aperto a quell'ora sull'angolo di via Roma. Con lentezza sapiente assaporavo la bevanda per me preziosa e mi riempivo le nari del suo aroma. Non avrei voluto finisse mai. Mi sentivo calda, calda, con le vampe al viso e leggerissima. L'atmosfera fumosa e satura d'alcol, il banco rivestito di metallo bianco, riflettente le fiammelle del gas, le bottiglie multicolori allineate sulle scansie eccitavano, illudendola con bizzarre allucinazioni, la mia pronta fantasia. Non era più il caffettuccio del maresciallo, era la grotta del conte di Montecristo, colma di tutti gli smeraldi, i rubini, i topazi, gli ori e gli argenti del tesoro misterioso. «Presto, presto», diceva la mamma, alzandosi snella e pagando al banco, «presto, presto, che non si arrivi a messa già cominciata». Vi risparmio l'incanto per questa bambina della messa con gli incensi, i canti, che era proprio le luci. Mondo. Sì. Era il Natale de poveretto, era un Natale poveretto. Ma come hai sentito questo caffè? Che cosa doveva essere questo caffè? Veramente, per sentirlo così intensamente. Intensamente. Aveva 5 anni quando beveva il caffè. Era le 5 del mattino. Era le 5 del mattino. l'età era di 8-10 anni. Ah, 8-10 anni l'età. Sì. Sì. È nata nel 1870, quindi siamo alla fine degli anni 70, non del secolo passato, ma del secolo ancora precedente. Sì. Insomma, mi piaceva appunto la lettura di queste atmosfere natalizie, anche questa povertà che c'era in Italia alla fine, insomma, prima della guerra, nel periodo della prima guerra mondiale, siamo alla fine dell'Ottocento. Sì, quindi veramente proprio questa povertà è come si riusciva proprio a gustare piccole cose che adesso per noi magari sono così, ed è una corsa al consumismo e ai regali. Beviamo il caffè sbadatamente. Sì. più volte al giorno, invece quello lì era proprio un caffè eletto, ecco. Sì. E anche l'emozione dell'andare svegliarsi alle 5 del mattino per andare a messa, e poi appunto questa emozione dopo nei passi seguenti diceva appunto questo andare a messa con queste luci, con questo oro, con queste cose che gli si faceva sembrare, lo faceva entrare quasi come vivere, ma distraeva, lo faceva vivere un sogno, qualcosa, la musica, i colori, lei che cantava, non sapeva cantare ma che cantava interiormente. Sì, molto bello questo, sì, passaggio. E allora niente, una domanda. Allora, Giuseppe, tu che sei giovincello, come ti ricordi il tuo Natale? Com'era il tuo Natale? Ma intanto c'era la guerra quel tempo lì. Sì. Quindi gli anni, io avevo 10 anni quando è finita la seconda guerra mondiale, non la sì, prima. Era la prima. Ricevevamo i regali la mattina, perché la notte ci portava Gesù Bambino. Ecco, da noi era la tradizione di Gesù Bambino, forse anche da me Gesù Bambino. Sì, sì. Sì. Qualche volta portava delle cose pratiche Gesù Bambino, perché non poteva permettersi sempre di... E poi mio papà mi spiegò a un certo momento che bisognava, che insomma Gesù bambino erano poi i genitori, sì, ma era sempre Gesù bambino che attraverso i genitori dava, quindi mi fece proprio la lezione edificante. Edificante. E tu come lo vivevi? Ti ha chiarito un po' le idee questa lezione? Sì, sì, mi ha chiarito le idee, perché piano piano capivamo che c'era qualche cosa dietro, ecco. Perché per me non è stato assolutamente così. È stato uno shock. Io per non te. Ho avuto nessuna spiegazione, però ho capito da sola dove mia madre aveva nascosto i regali. Nascondevi i regali! Da me c'era la caccia al tesoro proprio. E sono andata a trovarli, sono andata ad aprire l'armadio dove c'erano i regali. E poi gliel'ho detto a mia madre, che ha negato. Evidentemente, certo. Beh, certo, però è peccato, è così. No, voglio dire che mio padre se l'è cavata abbastanza bene. No, anche mia mamma li nascondeva nel suo armadio, tra le centinaia di vestiti che cadevano dall'altro, dietro tra l'altro anche io adesso nascondo le cose nell'armadio. Ecco, proprio l'idea che passa di mamma e figlia. No, e allora io, vabbè, con i miei fratelli, a un certo punto, un giorno, ricordo di aver aperto l'armadio, perché c'erano due specchi, io quindi dovevo vedermi da dietro, no? Gli specchi che si riflettono, e dovevo vedermi la parte dietro, un vestito, e a un certo punto ho visto che c'era qualcosa dietro, che cos'è questa cosa qua? E ho visto che c'erano dei regali, e ho detto, ma cioè, siamo quasi a Natale, a voi vedere che questi sono i regali di Natale, altro che Babbo Natale, Gesù bambino. E allora ovviamente io, come non è che so tacere, quindi chiamavo mia sorella, Laura, guarda cosa c'è. Quindi è stato tutto sgamato, come si dice. Tutto sgamato, però quando ancora credevamo Gesù bambino non riuscivamo a dormire, al mattino ci svegliavamo, non mi ricordo che era, ma era prestissimo perché a me volevano stare a letto. Sì, anche noi facevamo sempre così. La mattina del 25 mia sorella, tutti quanti, però soprattutto mia sorella più piccola veniva a svegliarci molto presto, alle 7, tipo alle 7, le 8, andiamo ad aprire i regali, sì. Ma adesso ho sentito ancora recentemente la storia di un bambino qui in Belgio, della nostra famiglia, la famiglia di mia moglie, che appunto ha domandato papà, ma com'è possibile papà, a proposito di San Nicolà, no? Che una volta San Nicolà c'ha il naso a punto, una volta c'ha il naso tondo, una volta c'ha il naso rosso, gli occhi, sì, cambia sempre di colore, com'è sto fatto? E allora lui ha detto, adesso mettiamo a letto la sorellina piccola, poi vieni che ti racconto. L'ha preso sulle ginocchia e c'era la bambina che stava dietro la porta per sentire la spiegazione. Io penso che anche questo papà, come tutti i padri, ha cercato di spiegare che la provvidenza operava per mezzo dei genitori. Esatto. Ma io penso che creare questa immaginazione, questa ricchezza è un regalo che si fa ai figli. Sì, dare questa idea che insomma non è tutto così facile, immediato, pratico, subito, eccetera, che c'è qualche cosa in più. Sì, vorrei che il semplice consumismo uccidesse tutto questo, perché noi abbiamo letto adesso questo passaggio in cui si vede che non è proprio la quantità, ma il modo in cui si vivono le cose che conta, questa storia del caffè, voglio esatto, dire. Sì, sì, è proprio il modo in cui si vivono, io sono d'accordo, sì, sì, anche con la corsa nei regali, così alla fine forse proprio anche il pensare più che altro a un'altra persona, però è anche insomma fare anche qualche cosa di significativo, no? È anche importante, dare un non senso soltanto a quello che si fa. Esatto, e non tanto comunque essere soltanto magari nel consumismo, così, ecco. Però volevo ritornare un attimo a un altro tipo di atmosfera, che sono quella, allora, dei mercatini di Natale, sì, mercatini di Natale, che è originario del Nord Europa, ma che adesso è un po' di moda in tutta Italia, nel Nord Italia, Bolzano, così. E poi appunto due tradizioni, che sono quella del presepe e dell'albero di Natale. Sì. Allora, velocemente, il presepe, la nascita risalirebbe addirittura a San Francesco. Sì. E il più antico presepe è quello realizzato nel 1250 dallo scultore Arnolfo Di Cambio, che oggi è conservato nella Basilica di Santa Maria Maggiore. E in Italia la tradizione del presepe si sviluppa nei secoli XVII e XVIII, soprattutto a Roma, a Napoli, a Genova e in Sicilia. E appunto Napoli, ma adesso qua non abbiamo il tempo, però c'è proprio tutta una tradizione molto, insomma, molto, molto bella, molto ricca. Tra l'altro ho scoperto che allora il maggior, uno dei, insomma, dei più insomma, dei più notevoli, sì, esatto, come dire, scultori o comunque artisti, artigiani di presepe, addirittura esposto, nel senso che c'è un'esposizione a Monaco, al museo di Monaco, quindi sono anche riconosciuti, anzi sì, bellissimi. E invece per quanto riguarda l'albero di Natale, allora anche questa, la sua origine è associata a numerose leggende, alcune legate al culto pagano e altre al culto cristiano. Sarebbe il simbolo pagano, mentre il presepe sarebbe quello cristiano. Esatto, però ci sono alcune tradizioni cristiane anche. Si dice che nei culti pagani dell'Europa del Nord l'abete veniva venerato come simbolo di lunga vita. L'usanza di esporlo in casa partì dalla Germania e solo successivamente si diffuse in tutta Europa. Entrò nelle case italiane soltanto alla fine del XIX secolo, quando la moglie di Umberto I decise di allestirlo nel Quirinale. E da qui divenne un costume popolare. È recente. Esatto. E la tradizione, recente. E la tradizione italiana, non so se anche da voi al sud, ma vuole che venga allestito l'8 dicembre, che è il giorno dell'Immacolata. Esatto. Sì. E smontato il 6, cioè il giorno di Epifania. L'Epifania, gennaio, tutte le feste porta via. E allora porta via anche le ore della radio. Anche le ore della radio, anche questa nostra puntata che sta volgendo al termine. E allora, noi non possiamo, esatto, come suggerisce Giuseppe, non possiamo altro che fare dei calorosissimi auguri ai nostri ascoltatori. Giuseppe, vuoi fare anche tu? Ma sì, io li faccio anche alle persone care che ci ascoltano, Cristiano e altri. Sì, ecco, allora, calorosissimi auguri a tutti i miei amici che stanno festeggiando questa sera. E a tutti quanti buon Natale, buone feste dai colori dell'anima. Esatto, noi ci rivediamo qui a gennaio. Sì. Il 9 gennaio. Sì. E sempre dalle 21 alle 22. E Monica e Cristina, Giuseppe, vi salutano e auguri a tutti. Auguri.